Letture di Radio 24. Sono sette donne, sette magnifiche eroine. Così sono state ribattezzate in patria le donne che hanno segnato una pagina importante di resistenza nella lotta ai cartelli della droga messicani. Una resistenza incompiuta di cui non si vede la fine, ma alla quale queste sette donne, poliziotte, sceriffi e sindaci, si spingono dove gli uomini non osano andare. Le magnifiche sette eroine della lotta ai cartelli della droga messicani hanno già scritto tante pagine di una resistenza incompiuta e di cui non si vede la fine. Alcune tragiche, che raccontano di vite stroncate, altre promettenti, ma incerte e fuori dai riflettori. Esempi di ordinaria militanza a favore del popolo più che contro i cattivi. Ma una su tutte a simboleggiare una sfida a testa alta, totale e pubblica, che commuove e ispira. È la vita di Maria Santos Gorostieta Salazar, 34 anni, madre e vedova, sindaco di Tiquicheo, a pochi chilometri da Città del Messico. Quando fu eletta, 4 anni fa, era una moglie felice, impegnata a migliorare i servizi sociali della sua piccola cittadina. Sperava di poter svolgere il suo compito senza essere coinvolta nella guerra fra gli agenti federali e i narcotrafficanti, ma il solo stare dalla parte dell'ordine e dell'emancipazione sociale è una minaccia per chi fiorisce sul terrore delle terre di nessuno. E così Maria è finita nel mirino delle gang e ha subito un paio di attentati. Nel primo, del 2009, perse la vita il marito che era con lei. Il corpo della donna, che se la cavò per miracolo, fu martoriato dai proiettili e le ferite al petto la costringono ancora a portare una borsa esterna attorno al torace per le funzioni digestive. Un anno dopo, Maria scampò anche al secondo assalto, ma non pensò mai di darla vinta al cartello, che da voci non confermate da alcuna inchiesta, sarebbe la famiglia Micho Acana, famosa per le sue violente esecuzioni. Anzi, ha già espresso l'intenzione di correre ancora per la stessa carica nel 2012 e ha lanciato la sua campagna con un poster mozzafiato, lei a spalle e torso nudo, con solo il seno coperto, per far vedere le piaghe, conseguenze della crudeltà dei narcos verso di lei. Le eroine messicane che combattono l'impossibile guerra per la vita e per la pace civile. Nel solo 2010 ci sono stati 15.723 morti in incidenti legati alla droga e 34.612 negli ultimi 4 anni. Possono essere fermate solo con il piombo. A Ciudad Juárez, una delle città più insanguinate al confine con gli Stati Uniti, della settantina di poliziotti assassinati l'anno scorso, una fetta importante erano donne. Del resto, nello stato di Chihuahua, le cifre ufficiali rilevano una presenza di 540 donne tra gli agenti in divisa, un terzo del totale. Delle magnifiche sette che hanno fatto cronaca, 2 sono state assassinate e di una non si sa più nulla dopo il suo rapimento. La mascotte dell'eroina è Marisol Valles Garcia, che a 20 anni è stata la più giovane di sempre a diventare capo della polizia, nel settembre scorso, a Praxidis Guadalupe Guerrero, quartiere di Juárez. Ha già costruito un centro sportivo, dà scarpe e vestiti ai bisognosi, organizza serate in cui promuove incontri di socializzazione per battere i balordi, creando comunità. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Messico, la lotta ai narcos è una questione di donne, di Glauco Maggi, dalla Stampa, del 1 febbraio. Si chiama Vertical World Circuit ed è costituito da grattacieli che vanno dall'Empire State Building al Pirellone. Ma non è una gara di altezza, bensì un circuito di grattacieli che costituiscono percorsi per il Vertical Running, ovvero la corsa nel grattacielo, una specialità che sta conquistando seguito e diventando un vero e proprio sport. Su per il Pirellone sono 39 piani, 127 metri, 710 gradini. Marco De Gasperi, local hero, li ha percorsi correndo in salita per 3 minuti e 30 secondi, record fin qui imbattuto nelle gare sul grattacielo milanese. Su per il 101 di Taipei, la seconda torre del mondo, la gara di velocità, sempre in salita, si trasforma in un massacrante mezzo fondo. Dei 448 metri di estensione del longilineo manufatto, 391 sono percorribili a piedi. E qui i piani diventano 101. Gli scalini salgono a 2046. Di corsa si possono fare, al meglio, in 10 minuti e 29 secondi. È il vertical running, la corsa a salire per le scale dei grattacieli del mondo. In altri casi lo chiamano stair climbing, la scalata dei gradini. Dopo 34 anni, il primo evento agonistico si realizzò puntualmente a New York, su per l'inossidabile Empire State Building. La disciplina bizzarra è diventata uno sport. È stata inserita in una federazione, la corsa d'altura, rivelando un seguito in 4 continenti. Nel 2010 il vertical running ha fatto registrare 160 gare agonistiche e nelle ultime stagioni l'impegno per atleti vestiti da travet è diventato un circuito ufficiale mondiale con regole conosciute, controlli antidoping, premi da distribuire. Sono 8 gare fino al 26 novembre, dall'Empire di Manhattan al Corrida di San Paolo, passando per Basilea, Londra, Milano. Sarà il 22 maggio non più al Pirellone, ma al nuovo Palazzo della Regione, Taipei, Berlino e Singapore. Il tedesco Thomas Dold ha vinto a New York per la seconda volta consecutiva, mentre fra le donne l'italiana Cristina Bonacina è arrivata in cima seconda, dietro l'australiana Alice McNamara. Rispetto al 2010 sono rimasti fuori dal circuit lo Step Change di Londra, la Sydney Tower, la Torre de Collserola a Barcellona. La filosofia organizzativa è quella di variare, scoprire nuovi gradini celebri, skyline riconoscibili e organizzarci intorno all'evento. Il sogno è quello di approdare al Buri di Dubai, il grattacielo più alto di tutti, 818 metri sopra il deserto. Potrebbe accadere già nella stagione in corso. E i trials, le prove d'allenamento, quest'anno si svolgeranno a Chicago, Mosca, Bogotà e Ho Chi Minh City, in Vietnam. Il più grande vertical runner vivente è il tedesco Thomas Dold, 27 anni. Ha dominato il circuito 2009 e quello del 2010. Si è fatto le ossa con il retro running, la corsa alla rovescia, quindi ha affinato la sua tecnica sugli scalini. Li sale due alla volta. Nell'ultimo mondiale, con 420 punti, Dold ha distanziato il nostro Fabio Ruga, runner d'altura ora affascinato dalle ascese metropolitane. L'Italia ha ottimi numeri, è una vera e propria scuola, nonostante la scarsità di grattacieli dove allenarsi. Nei primi 24 posti del ranking 2010 c'erano 6 azzurri e a Milano, per dire dell'appeal organizzativo, si è già corso 4 volte. Marco De Gasperi, forestale di Sondrio, 6 volte campione mondiale di corsa in salita, quella a cielo aperto, uno che abitualmente si allena sulle centrali idroelettriche della Valchiavenna, spiega: «Questa disciplina è alla portata di tutti». E la fase fondamentale è la partenza. Se ti trovi intruppato, la gara è finita. Le scale sono strette ed è difficile superare. Accade che per farlo si usino metodi aggressivi, spallate, gomitate. In 10 minuti di vertical running si possono perdere 100 calorie, tonificando gambe e glutei, aumentando la resistenza aerobica. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Su per le scale dei grattacieli, la folle conquista del mondo, a firma di Corrado Zunino e pubblicato su La Repubblica di mercoledì 2 febbraio. «20.000 dipendenti comunali e 90 consiglieri regionali che la Commissione ha deciso di non ridurre a 70, ritenendo ben altri i problemi. Questa è la situazione della Regione Sicilia e dei suoi sultani, come li definisce l'editorialista della Stampa Massimo Gramellini. Dopo attente riflessioni, la Commissione incaricata di ridurre il numero dei consiglieri regionali siciliani da 90 a 70 ha deciso di soprassedere». Ben altri essendo i problemi dell'isola. Non che abbia minimamente influito, ma per la completezza dell'informazione gioverà aggiungere che la commissione era composta dai consiglieri regionali medesimi. Il loro senso di responsabilità è al di sopra di ogni sospetto. Di recente si sono ridotti lo stipendio del 10%. È vero, se ne sono aggiunti un altro 10% alla voce aggiornamenti culturali. Ma la cultura è importante, come i viaggi di lavoro, del resto. 490.000 euro all'anno. E però Non di sola cultura e di soli viaggi vive l'uomo. Così l'assemblea regionale ha posto fine allo scandalo del ristorante interno, dove un pasto completo costava 11 euro. Il menù è stato raddoppiato, classico ed etnico, e il conto ridotto a 9. C'è poco da ridere. Anche un risparmio di 2 euro può aiutare il bilancio familiare di persone che ne percepiscono appena 19.400 al mese, lordi. Qualche lettore si starà domandando come mai i cittadini siciliani accettino questo scandalo finanziato dalle loro tasse, per inciso anche dalle nostre, senza ribellarsi. L'indole fatalista? Forse. Ma soprattutto il clientelismo. Palermo ha oltre 20.000 dipendenti comunali, per pagare i quali a gennaio il sindaco ha dovuto attingere i fondi inviati da Roma per togliere la spazzatura dalle strade. 20.000 dipendenti, in effetti, sono un po' troppi. Andrebbero ridotti, ma niente paura. Se ne occuperà la prossima commissione. Avete ascoltato la lettura dell'articolo I Sultani di Sicilia, a firma di Massimo Gramellini, pubblicato dalla Stampa di venerdì 4 febbraio.